Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini con la voce un po' nasale perché sono in piena influenza, vabbè, insomma passerà come al solito, sono i famosi mali di stagione, questo freddo che ti prende, non ti copri mai abbastanza ed ecco quello che succede. Oggi il riposo del guerriero avrà la sua ultima puntata, quindi da domenica prossima il palinsesto di Radio 24 cambierà e quindi non ci sarà più il programma e allora ho pensato di invitare in questa puntata alcune delle persone che hanno un po' caratterizzato Riposo del Guerriero in questi 6 anni, sarà una sorta di circo, così l'ho voluto definire perché insomma c'è la vita di tutti noi un po' una vita da circo, no? Perché il mestiere di chi sceglie di fare della propria professione un unicum, qualcosa che ti caratterizza e non hai altro, insomma puoi giocare solo le tue carte in questo modo e quindi credo che insomma, la vita proprio di tutti noi sia un po' come un circo al quale poi ci sono gli spettatori che assistono, a loro volta poi interpreti dei loro circhi. E al di là di questo voglio salutare ovviamente gli ascoltatori che possono come sempre scrivere i loro messaggi al 349-238-6666, la nostra pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero, e camminiamo quindi su questo filo senza rete raccontando le storie di tanti personaggi. Oggi gli ospiti saranno veramente molti e il primo ha a che fare con la canzone che vi faccio ascoltare. Il nostro amore durerà per una breve eternità. Il nostro amore durerà finché la morte non verrà per una breve eternità. Devo dire che l'ossimoro della breve eternità mi piace molto. Bruno Lauzi tradusse il testo di questa canzone di George Moustaki, ovvero Giuseppe Moustaki, che è scomparso a maggio di quest'anno. Giovanni Nuti, buona domenica. Ciao Giovanni. Buona domenica Stefano, buona domenica a tutti. Compositore, cantautore. Grazie a te di essere con noi oggi. Compositore, cantautore, e da pochissimo pubblicato questo, ma è un disco solo con quattro versioni di questa canzone? Quattro versioni, come la incise Moustaki all'epoca, in italiano, in francese, in spagnolo, in tedesco, per rendere omaggio a lui. E in questa canzone che io ho sempre amato e che secondo me è un po' la condizione di tutti noi, soprattutto adesso. Sono tempi questi di grandi immigrazioni, tempi di viaggi continui, soprattutto di circolazione delle idee, delle persone. E quindi, come dire, siamo un po' tutti stranieri, la terra non è nostra, noi siamo ospiti, questo è il mio pensiero. Giovanni, la nostra puntata oggi è vita da circo, no? Perché chi fa un mestiere come il tuo, quello di cantautore, poeta, scrittore di canzoni, vive un po' sempre sul filo, no? Cercando di dare qualcosa agli altri, ma poi senza rete, perché da un momento all'altro si può cadere, ovviamente, no? Quindi ci vuole molta concentrazione. Un cantautore come vive la sua giornata, che cosa fa, soprattutto quando è un cantautore del tuo genere, del tuo calibro, quindi un cantautore che pensa, un pensante, qualcuno che vuole comunicare, che prende dalla poesia per esempio i propri testi, come funziona? Io devo dire che ho avuto la fortuna di collaborare artisticamente con Alda Merini per 16 anni, quindi sono veramente, mi considero fortunato. Come passo le giornate? A inventarmi la sicurezza e sentirmi al sicuro, questo è molto importante, se no non si può fare questo mestiere. E poi inventandomi, come dire, un mio mondo e da cui traggo la gioia, da cui traggo proprio questa energia per andare avanti. Quando non vengono le idee per comporre, che cosa fai? Ma guarda, aspetto il momento giusto. Innanzitutto le idee arrivano quando appoggiamo la mente all'attaccapanni, perché quando siamo nella mente non arrivano le idee. Quando noi non pensiamo a nulla, ecco che accade il miracolo, diciamo così. Non devi stare a pensare. Ecco. No, assolutamente no. Difatti Alda Merini mi ha insegnato proprio questo, che nei momenti di ozio, che sembrerebbero i momenti in cui non si fa nulla, invece sono proprio quelli che sono perfettamente come dire, danno l'impulso alla creatività. Ecco, muovono quei meccanismi nel cervello che ti fanno avere delle idee, che poi è un po' come i sogni, no? Sembra che tu non abbia niente, poi vai a dormire, sembra che il corpo sia assolutamente inerte, e lo è anche, però alla fine le idee arrivano nel accadono, sonno. Esatto. Accadono anche senza di noi. Giovanni, resta lì un attimo, aggiornamenti sul traffico, sì, che poi cerchiamo di capire che cos'hai nel cassetto. IG Markets, trading su azioni, indici, forex. Scopri i CFD su igmarkets.it. Vi presenta Strade in diretta. Di nuovo buongiorno. Sulla 7 Milano-Genova ancora code per un incidente tra Roncoscrivi e Isola del Cantone verso Milano. Sull'Autosole un mezzo fermo in panne crea rallentamenti fra Roncoviraccio e Calenzano verso Firenze. Segnaliamo la chiusura della 3 Napoli-Salerno tra San Giovanni e Napoli Centro verso Napoli fino alle 13 di oggi. Al momento ci sono code in prossimità del tratto chiuso dall'allacciamento con l'Autosole a San Giovanni, sempre in direzione di Napoli. Verso la Svizzera, al nord, sulla 9 Lainate Como Chiasso, si resta in coda per le operazioni doganali fra Como Nord e Chiasso. Infine ricordiamo che a Milano oggi, fino alle 12 circa, per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva Walk of Life di Telethon, alcune linee del trasporto pubblico di superficie subiscono modifiche di percorso e rallentamenti. Ed è tutto per ora, più tardi. Il riposo del guerriero. Giovanni Nuti, cantautore, compositore, da pochissimo è uscito con un si chiamavano Q-disc, Giovanni, adesso com'è, sì, che li posso... Sì. Ora posso puoi chiamarli come vuoi. Ah, va bene, ok. Allora diciamo, non so come chiamarlo davvero, una raccolta delle quattro versioni di George Moustaki dello Straniero, sì, che in francese, io non lo so il francese, Le Metec si intitolava. Le Metec, sì, il meticcio. Ecco, poi invece francese, spagnolo e tedesco sono le altre due, sì, lingue. Spagnolo e tedesco, che proprio come ti ho detto sono state le versioni da lui incise. E tra l'altro ebbe un grandissimo successo la versione italiana cantata da lui. Ma guarda, le discografiche all'epoca stampavano solo quel disco, quindi è una cosa incredibile. E poi lo stampò a sue spese perché non ci credevano, da quello che ho letto. E invece, come sempre, ecco. Giovanni, che cos'hai nel cassetto? Cosa ascolteremo da te? Ho tante cose belle in questo periodo. Dopo, come dire, anch'io il mio riposo del guerriero, costruttivo e creativo, da un anno e più che sto lavorando al nuovo disco di inediti di Alda Merini, che uscirà a marzo prossimo. E poi la cosa che mi rende pieno di gioia è che il 18 ottobre partirò dal Teatro Trianon di Napoli con uno spettacolo di canzoni sempre di che ho musicato e poesie di Alda Merini, Mentre rubavo la vita, con una grandissima artista che è Monica Guerritore, e questo mi dà veramente tanta gioia. Verremo quindi a... Tra l'altro nella versione inedita di cantante, perché tutti la conosciamo come una grande attrice, e invece nello spettacolo canterà le mie canzoni. Bene, quindi le ascolteremo anche, pensavo recitasse mentre tu così cantavi. No, invece no. È questa la sorpresa, vedi che siamo, le idee, come dicevo prima, arrivano, sono in movimento, quindi mai pensare che una cosa sia statica, è tutto fluido, fluisce tutto, cose inaspettate. Infatti io feci una puntata del riposo, si intitolava Mestieri, le persone che non ti aspetti, e sono persone che fanno mestieri completamente diversi e che hanno una loro altra vita dove hanno successo, fra le altre cose. Vero, per cui... verissimo. Quindi c'è anche questo. Grazie Giovanni Nuti, buona domenica, ciao. Grazie Stefano, buona domenica a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Michele Tosi, ciao, buona domenica. Oh, buona domenica a tutti, ciao Stefano. Michele Tosi è il pubblicitario che ci ha accompagnato per tante puntate. Senti, la cosa più difficile per un pubblicitario qual è? Se ce n'è una. La mattina e dire... Non importa che tu sia Leone o Cazzetta, no, è che si ricomincia da capo ogni mattina, praticamente. La sfida è quotidiana, e quindi il panico del foglio bianco, che viene molto spesso, si ripercuote giorno dopo giorno. Senti, non si ha paura di essere ripetitivi con le cose che si scrivono quando si fa pubblicità? Sì, tantissimo. Il terrore è dietro l'angolo della ripetitività, e non solo, ma molto spesso uno impegna giornate a trovare magari una frase interessante, un titolo, per poi scoprire che è stato già fatto da qualcun altro, perché i meccanismi per arrivare molto spesso si ripetono. E allora questo è molto snervante da un certo punto di vista. E bisogna avere mille antenne per sentire quindi tutto quello che è stato già fatto, scritto, detto, suonato e cantato. Che non è mica facile. Non è facile, è quasi impossibile, quasi impossibile, perché ogni tanto ci si casca, diciamo mi hanno copiato, no, siamo arrivati da un altro punto di vista ma allo stesso traguardo. Come è cambiato il mercato della pubblicità dal passato a oggi, visto che tu sono molti anni, moltissimi ecco direi, non voglio dire quanti perché saranno almeno 40, quanti sono? Ecco. Sono 35 e un pezzo. È un pezzo, appunto, che ti occupi di questo. È cambiato tanto, perché ovviamente una volta c'era più relax, più tempo e più soldi. E questi tre elementi permettevano ai creativi di essere un po' più liberi e meno attenti al rischio imprenditoriale del cliente che metteva sul piatto i propri denari. Adesso i denari sono pochissimi, per cui quelli che vanno spesi con estrema accuratezza. Questo purtroppo limita un pochino il rischio. E la pubblicità, come sappiamo bene, è piena di creatività o dovrebbe esserla, e la creatività spesso cerca dei nemici, cerca qualcuno con cui competere, provoca, stimola, e questo ogni tanto può anche creare qualche pasticcio, inevitabilmente, li abbiamo visti tanti. Ecco, quindi succede ovviamente. Senti, qualche giorno fa c'è stata una polemica che è nata proprio alla Zanzara, qui a Radio 24, non so se l'hai letta sui giornali, con Barilla e per la famosa famiglia del Mulino Bianco, che è una famiglia classica, diciamo così, e invece alla domanda osereste famiglie gay, no, perché l'immagine del Mulino Bianco è quella, e io credo che la pubblicità comunque vada al di là del pensiero personale di un cliente. Tu da pubblicitario cosa pensi? Io penso che lui abbia, il dottor Barilla, abbia fatto una dichiarazione maledettamente vera ma con le parole sbagliate, nel senso che la pubblicità non è avanguardia, come ho già detto tantissime volte, soprattutto per un prodotto tradizionale, e i prodotti tradizionali usano degli stereotipi, consuetudini, che devono piacere al pubblico di riferimento di quel prodotto. Per cui io credo che Barilla, finché nella norma, chiamiamola norma per non usare altre parole difficili o pericolose, la consuetudine di quella famiglia è quella lì, l'icona e la modalità di comunicazione è quella per Barilla, per cui sarà sempre così finché non sarà completamente accettato, normalizzato e aperto l'amore a tutte le possibilità, e allora anche Barilla seguirà questa cosa tranquillamente, ma non può fare avanguardia, perché io ho fatto anche un appunto con degli amici quando è stato preso Banderas, dicendo ma non è possibile che Banderas sia un vino a parlare con le galline. Eppure questa scelta è stata più che vincente, perché ha creato una nuova immagine, ha aumentato le vendite con mio enorme stupore, dicendo ma forse la gente ci crede ancora a queste cose? La risposta è sì, ha voglia di quelle cose. Probabilmente altre marche si permetteranno altri posizionamenti che magari saranno vincenti e porteranno le vendite a loro più avanti, perché sono avanguardia, differenza insomma. Quello è il loro posizionamento. Poi il modo e le parole usate sono veramente, cioè è un personaggio pubblico che non si può permettere certe affermazioni, secondo me. Però beh, insomma, c'è anche il pensiero, un copyright, un pubblicitario ha anche un pensiero personale, non è che esista solo allora, suo mestiere. Il pensiero personale puoi immaginarlo, cioè io infatti, certo, dico, è giusto, fare quindi delle cose molto più provocatorie, innovative, divertenti, perché abbiamo nel cassetto tante campagne buttate via, tante idee che non sono state mai utilizzate, tanti percorsi mentali, provocazioni, musiche che per ora sono ancora scorrette dal punto di vista pubblicitario, che ne so, tantissime cose che purtroppo non possiamo usare e ce le guardiamo tra di noi e ce le guardiamo sul piano della pubblicità facendo finta che siano uscite. Ma prima o poi si possono tranquillamente tirare fuori. Grazie Michele Tosi, grazie davvero, buona domenica. Piacere. Grazie. Grazie, ciao. Ciao Emilio Cozzi, buona domenica. Buongiorno Stefano e buona domenica a tutti. Cosa è successo stamattina? È successo che è domenica e come altre domeniche il fenomeno si ripresenta. Allora tu devi sapere che Emilio, alla fine di questa puntata, che è l'ultima del riposo del guerriero, lo ricordo ogni tanto, ci sarà una sorta di passerella, sì, virtuale ovviamente, non è che non, certo, potete passare davanti al pubblico, certo, però ognuno di voi ha una definizione. Non ti dico qual è la tua, l'ascolterai dopo alla fine della puntata. Sono molto curioso. Beh, infatti, lo sapevi. Allora, Emilio Cozzi è un bambinone in realtà, no? Perché hai compiuto già 18 anni da qualche tempo. Da un po'. Esatto, da un po'. Sei un grande appassionato di videogiochi. Sì, decisamente. Che è una roba da ragazzini, ecco. Io ti faccio finire, poi se permetti. Però sei anche vice direttore di Zero e sei un giornalista. Esattamente. Allora, come convivono le tre cose? No, insieme? No, voglio dire, su di te è possibile fare convivere anche lo sport, fra l'altro fa parte della tua vita. Mi piace. E quindi il senso è mettere insieme tutte queste cose. E poi Zero che cos'è, visto che molti ascoltatori magari non lo sanno. Certo, beh, partiamo dall'ultima, sì, domanda, direi. Zero, sì, è una casa editrice che esiste dal 96 e che si occupa di mandare le persone a divertirsi. Questo è quello che facciamo in alcune città italiane, a Istanbul, fuori dall'Italia. In alcune città italiane vuol dire Roma, Milano, Firenze, Napoli. Ecco, saresti un ottimo, sì, venditore. Perché allora, uno che dice mandiamo le persone a divertirsi, certo, ti arrivano 200.000 curricula, perché ovviamente tutti, beh, vogliono fare un mestiere così. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. C'è il rovescio della medaglia, nel senso è una cosa serissima mandare questo, a divertirsi, sì, alla gente. Certo. Quindi cosa facciamo esattamente? Monitoriamo la produzione, se vuoi anche culturale, delle città in cui, sì, in cui usciamo, e poi online su Zero.eu, chiaramente ogni giorno diamo una selezione degli eventi che a nostro avviso, che siano di tipo enogastronomico, che siano di tipo appunto di intrattenitivo culturale, oppure la notte, il clubbing, la musica, il teatro, il cinema, eccetera eccetera, consigliamo quello che secondo noi è assolutamente imprescindibile per divertirsi seriamente. E facendo questo, in realtà noi raccontiamo le città in cui usciamo, perché poi attraverso la produzione e il consumo culturale di ogni città tu la racconti. Pensa a Milano negli anni 70, penserà adesso, sono cambiate tantissime cose e lo vedi molto nel consumo culturale, nel divertimento che la gente in qualche modo approccia in maniera diversa e con metodologie e metodi diversi. Questo fa Zero, lo fa dal 96, è gratuito, ogni cosa che Zero fa è gratis e, come dire, speriamo che di fare divertire davvero le persone. Senti, quante città uscite? In Italia siamo su Milano, su Roma, su Torino, Bologna, Napoli, sul Veneto, su Firenze, e all'estero siamo su Istanbul. Quanti? Questa, cioè, è l'edizione cartacea, poi ripeto, c'è l'edizione, cioè, online. Sì, che è anche più aggiornata, nel senso che quella cartacea va preparata prima, quindi, certo, sono eventi, certo, che arrivano all'ultimo minuto, diciamo così. Quindi in questo senso la rete è interessante da quel punto, sì, di vista. Assolutamente sì, e poi esiste anche un'applicazione mobile, appunto, sui telefoni, attraverso la quale tu puoi sapere in tempo reale cosa c'è adesso. Ecco, a proposito di divertimento e cultura, sì, come stanno andando le cose? Ma allora, guarda, devo essere molto onesto e molto, sì, sincero, perché poi chi fa il nostro lavoro e soprattutto chi vive come me, per fortuna e per sfortuna a Milano, è abituato a parlarne male, non solo di Milano, ma in qualche modo i milanesi credono che Milano rispecchi un po' l'Italia, è vero fino a un certo punto. E invece io credo che, nonostante il periodaccio, sì, ci siano tantissime cose che basta scavare per trovarle, e mi auguro che usciranno. Cose molto piccole, energie, come dire, da coltivare, però in tanti settori diversi io credo che si stiano mettendo dei semi, speriamo appunto che fioriscano. Non so, stando, come dire, adeso alla mia passione, qui torniamo ai videogiochi, sì, penso solo per esempio a Milano inizieranno a breve, a fine ottobre, delle serate che si chiamano Insert Coin. Sono dei ragazzi, si chiamano Andrea Chenobit e Fabio Bortolotti, estremamente appassionati di retro gaming, quindi da Pac-Man, ma anche indietro, anche prima di Pac-Man, che mettono a disposizione questa loro passione in un circolo Arci, Métissage, in zona Isola, i milanesi lo conoscono, e lì chiunque può arrivare gratuitamente, giocare e conoscere dei giochi che per me, che appunto ho fatto 18 anni da qualche tempo, sono nostalgia e passione. Non avevi neanche mai visto. E passione antica. Sì. Per un ragazzo che magari di anni ne ha 20, sono novità, sì, incredibile, e vedi che c'è un effetto estremamente diverso e molto curioso. Ma anche in altri ambiti, anche in ambito gastronomico, la redazione di Zero mi ha fornito delle segnalazioni che sono veramente il segno che a Milano si possa fare qualcosa con un grande sacrificio, grande passione, ma anche con qualche risultato. Penso a Ratanà, di Cesare Battisti, a Daniele Ingannamorti, penso alla situazione di chi organizza feste come Lita, come Savana, che sono questi gruppi di ragazzi che mettono la propria passione nell'organizzazione di serate di clubbing, di portando artisti che non siano solo e solo esclusivamente, come dire, un motivo e un pretesto per ballare, ma che abbiano anche una profondità e una radice, se vuoi, culturale. La cultura a Milano, penso ad Hangar Bicocca, che è una istituzione che ci invidia tutta l'Italia, perché è di altissimo livello culturale, appunto, perdonate la ripetizione, di una selezione artistica molto alta. Nei prossimi due anni sono previste mostre molto interessanti e, come dire, ci sono le cose, come vedi, basta scavare. E basta anche conoscere, perché la difficoltà è quella che tanti non si mettono a conoscere. Ed eccoli zero. Ecco cosa serve, ovviamente. C'è la pubblicità e poi torniamo. Il riposo del guerriero. Grazie intanto ai messaggi che stanno arrivando sia su Facebook sia via SMS. Il numero è 349 238 6666, e grazie per quello che state scrivendo, anche un po' per le considerazioni e le opinioni, fanno sempre piacere, per adesso sono molto buone e quindi vi ringrazio, però potete scrivere anche cose non buone, le apprezzo comunque, vuol dire comunque considerazione. Fables, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buongiorno e buona domenica. Il nostro blog guerrigliere che si è scelto un mestiere, ma perché l'hai scelto? Voglio dire, anche tu non potevi scegliere di fare un'altra roba. Per passione fondamentalmente, è una cosa che ho iniziato a conoscere quando, ai tempi dell'università, che mi ha subito colpito, ecco, per le modalità con cui veniva espresso, per la non convenzionalità, per l'originalità dei mezzi di comunicazione utilizzata, dei messaggi lanciati, insomma, era un tipo di pubblicità che sicuramente mi ha affascinato sin dall'inizio, molto più di quella chiamata tradizionale, della pubblicità chiamata tradizionale. Da lì, insomma, è nato appunto il blog, blogueriglia.it, e da lì è stato, insomma, un evolversi Fables, per farlo diventare un vero mestiere. Fables si occupa di pubblicità non convenzionale e quindi quello che è il virale, che si chiama così, quindi quei video per esempio che vedete su YouTube che nascondono la pubblicità in realtà, no? Per esempio, sì, esatto, ho anche quelle attività fatte magari per strada, non so, si è parlato molto di flash mob, ora sì. Non vuol dire che il guerrilla marketing che sia flash mob, significa comunque è uno degli aspetti, significa comunque creare nuovi mezzi di comunicazione continuamente, o magari utilizzare i mezzi attualmente conosciuti in maniera alternativa, quindi anche la strada può diventare un mezzo per fare pubblicità, può diventarla appunto un video su YouTube, può diventarla anche una cosa che, non so, trovi nel fondo di un bicchiere di birra mentre alla fine quando è bevuto, insomma, può essere veramente ovunque. Ci dà la possibilità appunto di sperimentare ogni volta nuovi metodi per magari lanciare un messaggio pubblicitario, far conoscere un prodotto, un brand. Ecco, anche tu, visto che ti occupi comunque di comunicazione, come a Michele Tosi chiedo, quant'è la paura di sentirsi ripetitivi, di non avere idee nuove? Sì, più che altro, ecco, succede a maggior ragione dall'evolversi sempre più costante dei mezzi di comunicazione quali internet e social media, che comunque significa anche far sì che siano aumentati enormemente i player nel mercato, quindi e soprattutto fa sì che si sia spostato sempre di più quello che il non convenzionale viveva principalmente magari per strada, adesso si sposta sempre più sull'online, quindi è chiaro che aumentando anche i player aumentano anche tutta quella serie di attività di questa tipologia. Ovviamente il nostro obiettivo è sempre quello di creare un qualcosa di originale, mai replicare un qualcosa che sia già stato fatto o da qualcun altro. E non è sempre, che poi diceva, ecco, Michele, che poi alla fine si arriva alla stessa idea anche se da parti diverse, quindi uno dice mi ha copiato, invece non è vero, semplicemente si è arrivato alla storia. Ecco, sì, è vero, anche perché la comunicazione ormai è talmente tanta. Fables, il ruolo della televisione nel futuro quale sarà secondo te? Ma guarda, io spero sinceramente che possa evolversi così come si è evoluto il mezzo internet in maniera così veloce negli ultimi anni. Io penso che attraverso dal digitale in poi si spera che ci sia, l'unico modo secondo me per far sì che possa sopravvivere il più a lungo possibile è che possa iniziare ad esserci una certa interazione tra lo spettatore e la televisione, perché lo spettatore ormai è abituato a fruire mezzi di comunicazione in maniera anche più partecipativa, più attiva, quindi di conseguenza penso che anche la televisione debba fare in qualche modo uno step successivo altrimenti insomma rimane un mezzo da attrazione, sì, ma che non porta un qualcosa di successivo alla semplice visione passiva, ecco. Questo, certo, è quello che penso. Allora, insomma, in bocca al lupo per tutto, Fabio, so che non è semplice in questo periodo, soprattutto. Bloggerilla.it è il sito, e alla prossima. Ciao, grazie. Ciao Stefano. Emilio Cozzi. No, dovete sapere che Emilio, non so, tu sei attaccato allo smartphone, perché quanti tweet scrivi in un giorno? Più di 100.000? Sì, dai, ma cioè, ormai è inevitabile che uno che fa il mio lavoro debba necessariamente essere connesso perennemente. Ogni secondo scrive un tweet. Abbastanza, ecco. Abbastanza. Pensi che ci sarà un calo di tutta questa, della tweetologia, diciamo così? Oppure... Non lo so, io credo ci sarà, cioè, saranno utilizzi interessanti e diversi. Io adesso, a parte gli scherzi, a parte qualche caso che tu conosci, sì, bene, io lo uso moltissimo per lavoro e ha una grande utilità, in realtà. Poi immagino sì che i traffici potrebbero cambiare, che stanno arrivando cose nuove, cose anche più interessanti, chi lo sa. Vuoi ricordare il tuo hashtag? Il mio hashtag, il mio account è, sì, chiocciola, ovviamente, addio e grazie per, che sfido gli ascoltatori del Guerriero. Addio e grazie per. Addio e grazie per. Senza puntini di sospensione. Sì, no, esatto. Okay. Addio e grazie per. Ed è una citazione di uno, di una cosa che a me piace tantissimo. E vediamo se qualche ascoltatore la rintraccia, però insomma, sempre non abbia di meglio da fare adesso. 349-238-6666, Enrico Groppali, ciao, buona domenica. Ciao, grazie a te, buona domenica anche a te. Allora, Enrico Groppali è un critico teatrale e cinematografico e insomma lo sta facendo veramente da moltissimi anni, è la sua carriera. E quali sono oggi le difficoltà più grosse per uno che fa il tuo mestiere, Enrico? Beh, la difficoltà più grossa è che ormai sta sparendo la critica sia teatrale che cinematografica, ma soprattutto teatrale, dalla carta stampata, in un certo senso. E è vero che online ci sono sempre di più dei giovani, a volte anche molto bravi, che hanno intrapreso, non diciamo questa carriera, ma non so come dire, questa specializzazione per amore del teatro, eccetera. Però naturalmente non c'è nemmeno quel minimo di, diciamo così, di attenzione contributiva, di denaro che affluisce alle loro tasche. È diventata quasi una, diciamo, un pourboire, come dicono i francesi, una cosa del genere. Una mancia che noi facciamo alle istituzioni, è una cosa di questo genere, insomma ci sopravvive praticamente, anche perché da molto tempo, e questo naturalmente fa parte del costume, non fa parte dell'uno o dell'altro giornale o delle inclinazioni politiche, eccetera, eccetera, anche all'estero, ormai per quanto riguarda lo spettacolo, quello che si privilegia è l'evento, se c'è qualcosa di estremamente interessante, ma non interessante proprio tanto da un punto di vista artistico, quanto diciamo da un punto di vista di media. Certo, e quindi tu dici tutto si sposta da quella parte, e quindi rappresentazioni o anche film particolarmente interessanti dal punto di vista del contenuto vengono dimenticati e non in vengono certo raccontati. Senso, sì, però il cinema siccome rappresenta un interesse che va al di là della singola nazione, un interesse ormai multinazionale, sì. Il cinema, diciamo così, è più privilegiato, anche perché i festival cinematografici sono sempre molto affollati di operatori e di critici, di spettatori, eccetera, eccetera. Il teatro, anche per la difficoltà rappresentata in Europa da ognuna delle nostre lingue nazionali, è rappresentato soprattutto dagli spettacoli di avanguardia, che naturalmente non esigono di essere tradotti o che sia l'inglese a fare da padrone nella comunicazione. Lo spettacolo, diciamo così, fonogestuale, non ha nessuna... Sì, non conosce, certo, perché non conosce confini da questo punto di vista. No, Enrico, no. Quindi, scusi se interrompo, quindi un po', tra virgolette, non diciamo la morte, però insomma il calo dell'interesse verso il teatro è dato anche dal fatto che i critici non riescono a criticare o comunque appunto in questo senso quindi a raccontare quello che c'è. Ma no, cioè il fatto che fino agli inizi degli anni 70 la critica poi, avendo anche un... avendo un grosso spazio sui giornali, esistendo poi anche un pubblico teatrale estremamente attento, aveva una sua influenza, sì. Non l'ha mai avuta naturalmente all'americana, che addirittura sappiamo che a Broadway se ci sono delle critiche negative lo spettacolo dura 3 giorni e per l'eternità viene cancellato, viene cassato, sì. Viene cancellato, gli attori se ne vanno a casa, i registi eccetera eccetera. No, abbiamo perduto quello che era l'interesse specifico di una parte tutt'altro che marginale della collettività nei confronti del teatro parlato, diciamo, anche sì. Di grandi registi eccetera eccetera, e ci stiamo avviando verso una specie di internazionalizzazione della comunicazione, per cui anche spettacoli interessanti, anche spettacoli importanti che girano i festival e dove esiste il parlato, diciamo così, sì. Sono in qualche modo salvati, diciamo tra virgolette, esaltati quando è il caso, seguiti non tanto per la comunicazione verbale quanto proprio per la comunicazione scenica. Ed è questo praticamente che ci avvicina, sia in senso positivo che negativo, a una specie di internazionalizzazione dell'Europa, certo. Che guarda gli Stati Uniti, ma che guarda anche questi nostri poveri Stati Uniti d'Europa, divisi, a contrariamente naturalmente dagli Stati Uniti d'America, da un'infinità di lingue di comunicazione. Quindi in un certo senso andiamo verso una nuova spettacolarizzazione, che però forse nei prossimi 8-10 anni sarà molto più positiva che negativa. Grazie Enrico Groppali, grazie davvero per essere stato con noi nel Riposo del Guerriero in questi anni. Buona grazie domenica. Grazie a voi. Ciao, ciao. Arrivederci, buon lavoro. Ciao, Emilio, ciao. Ti vedevo annuire perché è così. Sì, ero estremamente interessato a quello che diceva Enrico e avrei voluto fargli una domanda, perché per esempio avrei voluto sapere se per lui era positivo o negativo il fatto a questo punto che l'anno scorso, mi perdoneranno anche per l'orario gli ascoltatori, ma La Merda, uno spettacolo teatrale, una produzione teatrale italo-francese, abbia vinto Fringe, cioè uno degli, come dire, delle platee, dei festival più importanti. Volevo capire se questo a suo avviso è o no un buon segno, insomma. Poi glielo chiediamo. Poi glielo chiediamo. Ed è uno degli eventi, per esempio, che nonostante la crisi teatrale, perché è evidente che si sia, per esempio su Zero hanno avuto maggiore rilievo, perché proprio c'era evidentemente in questo caso, forse per l'evento, come l'ho chiamato lui, un grande fermento, una grande attenzione, anche perché la protagonista andava in scena completamente nuda, insomma uno spettacolo molto forte, molto efficace. Ho capito perché andavano a teatro. Esatto, adesso vedi che invece sul cinema, che come dire, appunto, io sono un bambinone, sì. Ti ricordo che Spielberg disse ad avercene di bambinoni. Eh sì, è vero. Ad avercene di bambinoni. È un gran complimento. E anche secondo me, infatti ti ringrazio pubblicamente. E sul cinema sono d'accordo, per quanto però le nuove piattaforme sì. In realtà stiano, secondo me, disegnando un panorama che è di fruizione completamente nuova. Forse sono in crisi, adesso la sparo grossa, quindi... Sono in crisi le industrie tradizionali del divertimento. Le major, per esatto, intenderci. Che il discorso riguarda anche i miei tanto amati videogiochi. Cioè il sistema, o la musica, pensa alla musica. Il sistema industriale, diciamo, di produzione culturale, e sì, me ne assumo la responsabilità, di questo oggi parliamo. È in crisi. Quello tradizionale è entrato in crisi. Non è in crisi la musica, è in crisi la industria discografica, è molto diverso. Poi sulla musica, se vuoi, facciamo un altro discorso più approfondito. E parliamo dopo con un altro dei nostri ospiti. Grazie intanto, è qui con noi, avete capito, Emilio Cozzi qui di fronte a me in questo momento, è venuto a trovarmi in questa ultima puntata del Riposo del Guerriero. Aggiornamenti sul traffico e un altro ospite. Il Riposo del Guerriero. Intanto volevo dire a Emilio Cozzi che la sua citazione è stata sgamata, diciamo così. Meno male, sono contentissimo, insomma. Cioè, arriva dalla guida gratica per autostoppisti. Addio e grazie per il pesce. Per tutto il pesce. Che era la frase, sì, adesso non voglio. Sì, per tutto il pesce, per tutto è, il pesce. Anche giusto. È la frase che i delfini, cioè la specie superiore sulla Terra, certo, dicono salutando gli umani, che moriranno tutti il giorno dopo perché sta arrivando un'autostrada galattica e passerà sopra la Terra. Quindi i delfini, che sono più intelligenti di noi, ci salutano dicendo addio e grazie per tutto il pesce agli umani. È come non sparate, siamo amici. Esatto. Allora, di un altro film, Antonio Capitani, ciao, buona domenica. Buona domenica, ciao. Che era Mars Attack, che per un attimo sì, ho avuto un buio. Antonio Capitani ci ha accompagnati, all'inizio di ogni anno e anche durante l'estate, perché Antonio Capitani è un astrologo. Eh già. E quando si dice un astrologo, qua a Radio 24 arrivano 5 milioni di messaggi che dicono, come al solito, ma voi che siete una radio così seria, così, perché fate parlare questi cialtroni, Antonio? Sì, perché astrologo è una parolaccia, secondo alcuni, sì, capito? Poi invece non sanno che in realtà l'astrologia è una disciplina meravigliosa che se proposta coscienziosamente, intelligentemente, anche spiritosamente, può essere comunque una disciplina che aiuta a vivere la quotidianità in modo anche più proficuo, ecco. Qual è la difficoltà più grossa per un astrologo, Antonio? Saperla porgere, perché noi maneggiamo una materia che può essere anche dinamite spesso, perché nel pubblico degli utenti dell'astrologia, chiamiamoli così, c'è chi prende l'oroscopo per quel che è, 3 minuti di lettura piacevole o più o meno piacevole, e tutto finisce lì. C'è anche invece chi si lascia condizionare pesantemente, e quindi devi stare attento a come dire le cose, perché comunque se tu formuli un pronostico basandoti sulle reali posizioni dei pianeti del giorno, del mese, della settimana, dell'anno, quel che è, tu comunque non puoi raccontare frottole, tu devi tradurre in possibili eventi, stati d'animo, possibilità, quello che i pianeti in quel momento stanno descrivendo. Quindi devi saper porgere la previsione in modo tale da non creare poi patemi. Io su Twitter ricevo decine di messaggi tutti i giorni quando magari c'è un oroscopo non particolarmente fausto. Ah, ma allora io non esco di casa, ah, ma io c'avevo il colloquio da fare, ah, ma... Eppure io cerco, tu conosci il mio stile, cerco sempre di porgerlo in modo tale da strappare una risata. E quindi anche questo a volte non basta, quindi questa è una delle difficoltà. L'altra difficoltà è dover essere ingegneri verbali per certi versi, perché comunque noi scriviamo tutti i giorni di quotidianità, o comunque tutte le settimane, i settori della quotidianità, quelli sono e quelli restano, il lavoro, i rapporti con gli altri, l'amore, quindi devi fare anche uno sforzo creativo per non essere sempre ripetitivo, perché se no sono un po' le litanie. No, infatti quello è davvero uno sforzo grandissimo, perché è proprio difficile anche in questo caso cercare di non ripetersi, perché poi alla fine le cose sono sempre le stesse. La divulgazione astrologica è una... come potrei dire, una parte della comunicazione abbastanza delicata. Ora sembra che io stia parlando dei massimi sistemi, no? Però io ti assicuro che sulle riviste per le quali scrivo, sui giornali per i quali scrivo, c'è un pubblico di affezionati. Noi facciamo dei contatti impressionanti sul sito del mio giornale che sono veramente sconcertanti, e quindi devi essere sempre molto attento a non dire sempre le stesse cose, o comunque a dirle ma usando delle espressioni sempre differenti, e soprattutto a saperla porgere senza impressionare nessuno. Io sento a volte colleghi, io ho sentito di recente una cosa che mi ha fatto venire i brividi, non ti dico se era un o una collega che ha detto espressamente in televisione alle native di un certo segno di correre a farsi visitare dal ginecologo. Cioè questo è terrorismo astrologico io non mi sognerei mai di dire. Ma certo, poi anche quando si tocca ad esempio l'argomento salute, io sempre e comunque. Emilio, mai. Tu le leggi l'oroscopo oppure no? Perché Antonio Capitani, lo diciamo, la Gazzetta dello Sport, scrive su Vanity, dico bene Antonio? Io rientro. Tu che sei un lettore della Gazzetta dello Sport, per in quello realtà dico, poco, no. Mi dispiace dirlo. Poco, pensavo che fosse la tua quotidianità. No, perché devo essere, però questo adesso mi tiro le ire degli ascoltatori. Vabbè, ma era una curiosità. Non apprezzo molto il calcio e quindi... Tutti gli altri sport sì, attenzione. Sì, tantissimo. Detto questo, io rientro un po' nella fascia di quelle persone che dicono non sono scaramantico perché porta sfortuna. quindi l'oroscopo, rispetto all'oroscopo ho una, come dire, ho un'allergia, attenzione, lo leggo e non ci credo, però lo leggo. Quindi... Ma sì, perché poi comunque l'astrologia suscita sempre curiosità, anche chi dice che non ci crede poi lo legge più o meno nascostamente. Antonio, comunque sì, ora ti racconto un piccolo aneddoto. A pranzo con Cozzi e io mi sono messo lì a fare il tema Natale, ho detto 3 cose, lui mi ha guardato e fa: vabbè, ma come hai fatto a sapere queste cose di me? Quindi vedi che funziona. Perché l'astrologia è una disciplina straordinaria, una chiave di lettura dell'animo umano e del possibile destino individuale e collettivo che è senza pari. Grazie Antonio Capitani. Grazie, insomma, se non ci credete fa niente, ecco. No, ma noi li perdoniamo assolutamente, sì. Ciao, grazie in bocca al lupo Stefano. La nostra Pia Cappelli, ciao Pia. Ciao Stefano, ciao a tutti. Perché ti sei messa a fare il critico d'arte e poi di arte moderna dove non si capisce assolutamente niente? me lo chiedono spesso. Io in realtà mi sono innamorata lungo la strada dell'arte contemporanea. Mi sono laureata in filosofia e all'inizio mi sono occupata d'arte. Per mia fortuna ho cominciato presto a scriverne, perché ho cominciato a 22 anni. con il Corriere della Sera e mi occupavo anche di grandi eventi d'arte. Poi a un certo punto mi sono accorta che volevo occuparmi d'arte contemporanea, perché proprio nelle mie corde, nel mio interesse per la filosofia, quello che mi interessa oggi è andare a ficcare il naso là dove l'arte nasce, e cioè nella testa dell'artista. Quindi io ho deciso di occuparmi di arte contemporanea per avere la possibilità di vedere l'arte che si fa oggi, cosa sta succedendo oggi in giro per il mondo, poter entrare negli studi degli artisti, parlare con loro, farmi raccontare quali sono le loro storie, le loro ispirazioni. Quindi vedere non soltanto l'opera finita, ma soprattutto il processo che dalla testa dell'artista porta all'arte di oggi. E mi sembrava che dedicarmi a qualcosa di vivo fosse più adatto a me rispetto a fare un lavoro da storica dell'arte, una critica dell'arte diciamo antica o classica. Sì, o comunque appunto la critica fine a se stessa, quindi a opera finita. Ecco, il concetto è che l'arte moderna richiede anche una conoscenza dell'anima, chiamiamola così, dell'artista, altrimenti non la si riesce a capire. Ma io dico sempre che secondo me chi guarda l'arte contemporanea ha diritto a farsi una sua opinione sull'opera, anche semplicemente ragionando con la pancia, con il cuore. Quindi sì, tu hai diritto di guardare un'opera, decidere che ti dice moltissimo e quindi ti emoziona, oppure non ti dice nulla e quindi rimane muta, no? Tu non entri in risonanza. Questa è assolutamente una posizione a cui il visitatore ha diritto, no? Chi guarda l'arte ha diritto a non dover studiare per 6 mesi prima di comprendere un'opera. Però certo, quando si parla di arte concettuale o addirittura post-concettuale, come nel nostro periodo storico, è chiaro che sapere qualcosa in più aiuta, ed è lì che entra in gioco chi fa il mio lavoro, no? Chi fa divulgazione, che va alla sorgente, ficca il naso, va a vedere lo studio, si informa, conversa con gli artisti e poi ti racconta, possibilmente in un linguaggio comprensibile, fresco e non troppo criptico, che cosa sta dietro all'opera. Quindi tutto quel lavoro lì lo faccio con molta passione io, per poi raccontarlo a chi mi legge su Sole 24 Ore o altrove, in modo che anche tutto quello che sta dietro tutta la genesi dell'opera d'arte sia più chiara, no? Sia più anche più interessante e si possa capire che cosa sta dietro un'installazione apparentemente un po' incomprensibile o ad un video, ad un'opera d'arte fatta solo di suono, solo di luci, perché dietro magari ci sono tanti racconti che non sempre l'opera può fare, che non sempre l'artista vuole fare, e che sta a me andare così a cercare dietro all'opera. Per cui questo è il mio lavoro, divulgare, cercando di mantenere una mente fresca io, un linguaggio interessante che piace, perché ecco, sì, ce lo dicono anche gli ascoltatori quando ti ascoltano. La laurea in filosofia ti è aiutata indubbiamente in questo senso. Io sono invece spaventatissimo dell'arte post concettuale, perché credevo che dopo il concettuale si tornasse, diciamo così, all'Ottocento, e invece ho ancora prima. Beh, all'Ottocento magari no, però è chiaro che poi ci sono i famosi corsi e ricorsi, per cui si sa che non è mai vero che la pittura è morta, certo. Non è mai vero che una disciplina si chiude del tutto, a volte si apre con nuove forme, e l'ultima volta che ci siamo sentiti parlavamo di arte digitale, e secondo me c'è sempre molto da scoprire, per cui anche parte del mio lavoro è mantenere vivo l'entusiasmo e dimostrare che ci sono tante cose interessantissime da dire sull'arte, avendo però anche il diritto di vedere qualcosa e di dire no, a me questa cosa non interessa, non mi dice nulla, passo oltre, però non mi blocco su una cosa che non mi parla, su un'opera che non mi parla, vado a vederne delle altre, perché più cose si vedono e più si capisce anche di quelle che non amiamo, diciamo. Siamo quindi assolutamente d'accordo. Grazie Pia Capelli per essere stata nel Riposo del Guerriero, e ti leggeremo ovviamente la domenica sul Sole. Grazie. Il Riposo del Guerriero. Ultima puntata del Riposo del Guerriero, sono le 11:05. Ora vediamo un po' di indicazioni, nel senso, il numero per gli sms 349 238 6666, poi vedo che state scrivendo anche un po' di mail, l'indirizzo è guerriero@radio24.it. e siccome prima Emilio Cozzi, che risaluto, che è qui con me, ha dato il suo indirizzo di Twitter e dice: mi hai regalato già una valanga di seguaci. Esatto. Io dico seguaci al posto di follower, così molto, sono più chiaro. Piace molto. E il mio è Stefano Galla. Tiè, adesso vediamo quanti. È una gara, tipo. Esatto. Si è innescata la gara. Tanto cioè, ne avrai di più tu, sicuramente. Ecco. Senti, hanno chiesto cosa differenzia Zero dalle altre riviste simili a quella. Bah, intanto lo dico con meno piacere di quanto si possa pensare, intanto non ci sono riviste simili, nel senso che gli inserti dei quotidiani, per esempio, settimanali, ma non fanno il mestiere nostro in realtà, nel senso che noi monitoriamo sul campo quello che succede negli ambiti di cui parlavo prima, sì. E come dire, ne diamo conto immediatamente anche appunto attraverso l'online zero.eu, e questo lo facciamo da 16 anni, poi lo facciamo a titolo gratuito, nel senso per il lettore, sì. Mi spiego con grande ecco, onestà, però, ecco, sì. Attenzione, c'è anche questo da dire, adesso poi vediamo, sono dei numeri particolari che sono sponsorizzati da aziende, ma adesso è ovvio, perché bisogna, esatto, pur avere dei soldi per stampare, però in realtà le critiche e le segnalazioni che appaiono sono assolutamente libere, non sono pagate da, esatto, nessuno, ecco, volevo arrivare a questo punto, sì. Campando esclusivamente di pubblicità, perché questa è la nuda verità, è stata fatta però una scelta tanto tempo fa per cui non abbiamo poca pubblicità locale, e come dire, i ristoranti non ci pagano per essere presenti su Zero. Questo ci dà la possibilità di essere credibili, perché possiamo parlare male dei ristoranti come degli spettacoli teatrali, come dei concerti, perché non abbiamo, come dire, un legame economico, sì, con il produttore dell'informazione, dell'evento culturale, del contenuto, e questo ci permette di essere estremamente liberi nel bene e nel male. C'è, la nostra visione è molto peculiare, uno può essere d'accordo, può invece essere come assolutamente sempre in disaccordo, esatto, però come dire, è piuttosto schierata, e questo nel bene e nel male ci ha portati avanti dal 96 a oggi con difficoltà che il momento evidentemente diffonde, sì, però siamo ancora qua, ecco, e questo, vedi, ci fa molto, quindi, felici. La passione, come al solito, regge le cose. Sì, sì, speriamo che vada avanti così, perché appunto io credo che sia un elemento necessario di questi tempi, essere appassionati di quello che si fa e farlo benissimo, proprio perché si è appassionati. Prima tu avevi una domanda, quando si parlava con Enrico Groppali, il nostro, sì, critico teatrale cinematografico, sì, sulla musica, e ti chiedevi se le forme di distribuzione, diciamo, della musica sono così nuove che stanno un po' scavalcando le major. Guarda, tanto è un tema che peraltro io sentivo già dibattere qui a Riposo del, sì, Guerriero, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Io ho una mia visione che come dire, metto in piazza, e non essendo neanche uno studioso di questo campo, metto le mani avanti, nel senso, è una impressione, mettiamola così, però conosco molto bene i videogiochi, conosco molto bene il cinema così come va adesso, e quello che vedo è che la musica poi è una cosa ciclica, per cui tornerà a essere quello che era prima, però mi sembra che dal punto di vista dell'immaginario ne produca molto meno. Cioè, io sono cresciuto con i poster dei miei gruppi preferiti in casa, con, come dire, l'attesa spasmodica per il nuovo disco dei Metallica, sì, dei Pearl Jam, tu facevi la coda, eccetera eccetera. Quello che vedo adesso è che questa attesa, questa affezione sia diminuita in un momento in cui in realtà la musica è molto più diffusa di prima, è molto più accessibile di prima, e questa è una cosa non positiva, di più. Cioè, in qualsiasi istante tu puoi ascoltare una cosa nuova che prima non avresti nemmeno avuto la possibilità di, come dire, percepire. Questo è una cosa estremamente positiva. Dall'altra, purtroppo, credo questo porti a un consumo del contenuto rapidissimo, con tutte le conseguenze del caso, per cui credo sia molto più difficile appassionarsi o ascoltare attentamente qualcosa. È un mio parere personale. Lo sentiamo quello di Tommaso Labranca, però. Ciao Tommaso. Ciao a tutti. Hai sentito l'argomentazione di Emilio Cozzi, immagino, sì, adesso. Sì, l'ho sentita e la condivido anche, naturalmente. Grazie Tommaso, sono molto. Ecco, noi la condividiamo perché siamo vecchi ormai, hai capito? Questa è la verità. No. Ma no, perché allora, anche quando eravamo giovani noi eravamo accusati di consumare la musica, sì, consumare tutto. Poi invece non è stato così, perché abbiamo fatto tesoro di quello che abbiamo ascoltato e abbiamo imparato anche a cercare altro, a guardarci indietro, ad apprezzare meglio quello che ascoltavano i fratelli maggiori, perché dici, ma come ascoltavano i Beatles? E poi li capisci dopo, li scopri dopo, capisci? Per cui magari il 90% di quelli che ascoltano oggi musica di consumo resterà lì, ma un 10% diventerà come noi, si interesserà di più, approfondirà di più, ma basta vedere i commenti anche che ci sono su YouTube, per esempio, ai video di Justin Bieber, e vedi quei decenni che dicono, ma che musica è questa? Teatro, mio fratello, mio padre che ascoltava cose migliori, quindi c'è speranza, dai. Ecco, quindi andiamo bene. Tommaso Labranca fa lo scrittore, ma fa anche tante altre cose, l'autore, ha condotto anche dei programmi in radio e scritto. Tommaso, perché ti sei scelto un mestiere così complicato? Me lo chiedono sempre di più ogni mattina quando mi alzo, a volte mi sveglio anche di notte, mi faccio anche domande. Perché tanto, anche se avessi scelto quello che voleva mia mamma, cioè sì, il posto fisso, a quest'ora magari sarei stato un esodato, vista l'età. Per cui a questo punto mi dico, vabbè, ho fatto la scelta migliore. Non lo so, sai, non te lo so dire. So soltanto che quando ero piccolo mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, dicevo non lo so. Ecco, e anche adesso la risposta è sempre quella. Che lavoro fai? Non lo so, e per cui non è cambiato molto. E oggi, siccome in questa vita da circo, così sentito la puntata, dove si dice che insomma chi fa un mestiere come il tuo e il nostro in generale sei sempre un po' su un filo, no? E quindi la gente è a bocca aperta perché ti ascolta, ti guarda, però puoi cadere da un momento all'altro. E succede anche agli scrittori, a te credo che sia successo proprio, se posso dirlo, poco fa, di avere un romanzo pronto per la pubblicazione e poi di botto basta. Giusto? Posso dirlo? Sì, possiamo dirlo anche se non si può dire tutto. Perché no, vabbè, no, questo è ovvio, dietro. Però sono rimasto molto male, che c'è anche questa possibilità. Rimanere male è io che non l'ho scritto, io come lettore, ecco. Cioè non. Figurati io, non no, infatti. Ci lavori per mesi, ci pensi per anni, ho passato l'estate scorsa praticamente chiuso in questa bolla a scrivere e poi scopri che la cosa non va in porto, ma non perché non trovi un editore, perché l'editore c'era già, ma per motivazioni assurde la cosa è rimasta bloccata. E vabbè, fa niente, tanto vuol dire che ho fatto un esercizio di stile da solo. No, questo semplicemente per raccontare agli ascoltatori come comunque non sia semplice, no? Anche pubblicare addirittura qualcosa che dovrebbe essere già pubblicato e già a posto, insomma all'ultimo minuto può saltare tutto. E intanto nel cassetto hai le tue pagine. Sì, non tanto si va avanti, si fa altro e poi si vedrà cosa succederà. Che cosa hai nel tuo cassetto nel frattempo adesso, se ce lo puoi cosa raccontare? Cosa nel cassetto? Ho aperto una casa editrice con un amico, per cui da questo momento in poi mi pubblicherò da solo, ma non con le autoproduzioni che ci sono su internet, ma con una casa editrice seria, in cui pubblico non solo le cose mie prima o poi, ma soprattutto i libri che mi mandano e che mi piacciono. E allora dico, va bene ragazzi, mi piace, ve lo pubblico. Così imparano gli editori esterni, che mi sento un po' come un cantante contro le major, capisci? Che sono lì costretti a subire quello che vogliono le major, dico, bene, da questo momento mi produco io. Perfetto, da questo momento mi produco io. Tanto non vendere con un editore e non vendere da solo è la stessa cosa. Guarda, molti stanno facendo così adesso, abbiamo sentito anche la settimana scorsa uno con Vagamondo, per esempio, un nostro ospite che ha girato il mondo senza a piedi tra virgolette e che ha pubblicato perché non da solo, perché non voleva assolutamente nessuna costrizione. Però siamo partiti oggi con Lo straniero di Mustachì, cantata da Giovanni Nuti, che l'ha riproposta, e lui diceva che Mustachì ai tempi nel 69 si era, e quindi di 69 parliamo di un po' di anni fa, si era prodotto e stampato il vinile da solo perché nessuno credeva in questa canzone, che poi è stata prima in classifica per molto tempo, e addirittura dice che in quel momento si stampava solo quel disco in Italia, per cui ma è vero, ma sai qual è il problema dal punto di vista letterario, diciamo, che molti dei miei colleghi pensano di fare letteratura e invece stanno facendo editoria, sono due campi diversi. Cioè questo andare ai festival, andare alla festa di Manta piuttosto che al Salone del Libro di Torino, non è fare letteratura, è fare editoria, essere esponenti di un'industria, perché l'editoria è giustamente un'industria in cui lavorano persone che devono vivere. Quando invece questi pensano di fare letteratura, sbagliano, perché la letteratura è qualcosa del passato, un patrimonio che ha una nazione, un popolo, una lingua, che è ben diverso da quello che trovi in libreria oggi, che forse entrerà in questo patrimonio, forse no. E la stessa cosa penso si possa dire nella musica. C'è la musica e poi c'è l'editoria musicale, c'è la discografia, sono cose diverse. Tommaso, ci hai aperto un mondo con questa riflessione. Adesso c'è la viabilità e nel frattempo, mentre la viabilità scorre, io ed Emilio Cotti, che ci stavamo guardando dicendo è proprio così, e facciamo una riflessione su questo. E io ti ringrazio per essere stato con noi, con Il riposo del guerriero, per tutti questi anni. Grazie Tommaso. Ma grazie a te e a tutti. Ciao. Buona domenica. IG Markets, trading su azioni indici Forex. Scopri i CFD su igmarkets.it. Vi presenta Strade in diretta. Di nuovo a tutti, buongiorno. Subito sulla A14 Adriatica per segnalare traffico bloccato tra Valle del Rubicone e Rimini Nord in entrambe le direzioni. C'è un incidente avvenuto tra Valle del Rubicone e Rimini in direzione di Taranto. Passiamo alle altre notizie, ci spostiamo al nord sulla 6 Torino-Savona, un incidente causa code tra Altare e Savona con l'allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia in direzione proprio di Savona. Sulla tangenziale nord di Torino il traffico è rallentato sempre per un incidente tra Regina Margherita e Valli di Lanzo in direzione nord. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova. Ancora un incidente, la causa delle code fra Genova e Bolzaneto e l'innesso con la 12 Genova-Livorno verso il capoluogo Ligure. Un'auto è ferma sulla corsia di sorpasso. Sull'autosole sono i lavori a causare rallentamenti tra Fidenza e Parma in entrambe le direzioni. Sulla 22 del Brennero, traffico intenso che crea code di 2 km circa verso il confine tra Bressanone e Vipiteno. Ci sono code sulla 3 Napoli-Salerno tra l'allacciamento con l'autosole e San Giovanni verso Napoli a causa della chiusura della A3 proprio fra San Giovanni e Napoli centro verso Napoli, necessaria per il disinnesco di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Ripercussioni per questa chiusura anche sulla stessa A1, sul nodo di collegamento con la A3 verso Napoli si è formato un chilometro di coda. Per ora è tutto, più tardi. Il riposo del guerriero. Quindi concordi anche tu, assolutamente. Pienamente, pienamente. Allora io devo chiedere venia perché mi ha dato un messaggio cattivissimo, no, però insomma un po' perentorio. Per cortesia la smetta, ecco, la smetta è perentorio. Sì, direi di sì. Sì. Di dire arte moderna, la sua ospite si occupa di arte contemporanea scritto in maiuscolo, quindi vuol dire urlato, cioè come se la frase fosse stata. Per cortesia la smetta di dire arte moderna, la sua ospite si occupa di arte contemporanea, cioè proprio urlato. Sì, come dire, l'etichette viene meno, ma l'ascoltatore ha ragione. Assolutamente sì, sono due cose distinte, è vero, io che poi il termine moderno devo dire lo detesto. Francesca Dragotto, mi vieni in soccorso per cortesia, urla anche tu con me, dai, oggi è la giornata, va bene, accetto tutto. Buongiorno, buona domenica, e che dispiacere sentire questa vena un po' malinconica in sottofondo. Ma no, non c'è, guarda, stiamo sorridendo per la verità. Però serpeggia anche... Vabbè, ma questo, insomma, l'anima esiste. Francesca Dragotto, la nostra glottologa, che vi ha accompagnato e ci ha accompagnati per tantissime puntate di Riposo del Guerriero, non le conto neanche più, sono più di 350, e che si occupa appunto di glottologia, già il termine, voglio dire, spaventa. I colleghi direbbero di linguistica, perché va bene, nella dizione extra universitaria va benissimo sovrapporre glottologia e linguistica, all'interno dell'università cambiano in parte i contenuti, però insomma va benissimo così. Ecco, allora perché hai scelto questa professione, Francesca? C'è un giorno detto, voglio fare la ricercatrice e voglio occuparmi di questo. Cioè, c'è stato un evento nella tua vita o semplicemente è stato un po' un caso? Entrambe le cose, nel senso che mi sono iscritta all'università ormai 20 anni fa con l'intenzione di studiare letteratura, e poi per caso mi sono ritrovata al primo anno a seguire una materia che nel piano di studi era invece prevista per l'ultimo anno, ed era appunto la glottologia. E così come accade nella letteratura, là la mia vita è cambiata, e quindi ho capito che sarebbe stata quella la mia vocazione. Qual è la cosa più difficile per voi ricercatori in questo momento? Parte i soldi, che non ce ne sono, ma questo vale per tutti i settori. Per quello che mi riguarda è proprio l'atmosfera che si respira, un grande senso di oppressione, un malcontento generalizzato, e un qualcosa che spinge a dover andare ancora più a fondo e a ricordarsi che prima di tutto è una passione e poi un lavoro, per poter andare avanti quotidianamente. Ecco, diciamo che la passione, Emilio, è un po' il leitmotiv che ha caratterizzato tutti i nostri ospiti, ma è ovvio che fosse così, se no non riesci a trasmettere quello che senti e che sai agli altri, non riesci a divulgare se tu non hai passione. Sono assolutamente d'accordo, credo che sia il primo requisito necessario, senza quello il resto francamente non ha neanche molto senso, soprattutto, ahimè, questa sottolineatura contemporanea, il momento in cui la passione deve un po' bastarti anche in alcuni casi, nel senso che poi fai fatica, no? Diciamo prima con Tommaso. Si può pagare l'affitto con la passione, per esempio? Purtroppo non ancora, no, ma magari facendo, come dire, su Kickstarter. Poi... Potrebbe essere però un modo. Saremmo ricchi. Esatto. Senti, esatto. Francesca, su cosa in particolare si appassionano i tuoi studenti quando racconti? Della possibilità, dietro a una parola, di vedere tante storie e attraverso quelle storie capire meglio il mondo in cui vivono. la bellezza di tutte le discipline che ruotano intorno al linguaggio consiste proprio in questo, nella possibilità di dare accesso a tante porte che tutti noi abbiamo davanti, ma che senza strumenti non siamo in grado di aprire, se non forse al massimo siamo in grado di dischiuderle, però è solo grazie agli strumenti di una serie di discipline che siamo in grado di aprire quelle porte e conoscere meglio noi stessi, perché poi il linguaggio verbale, la lingua che parliamo, diciamo che è l'elemento che più ci contraddistingue rispetto a tutte le altre specie che popolano il pianeta. Certo, Francesca, per chiudere, parleremo tutti inglese prima o poi? Anzi, no, un inglese... Casomai inglesi, però sì, esatto, mi sembra dire di quello. Rivedere la storia del latino a distanza di 2000 anni, perciò io non credo. Grazie Francesca Dragotto, alla prossima, chissà dove e quando. Buona domenica. Ma ci sarà, buona domenica e soprattutto a te un in bocca al lupo, come si dice. Grazie, poi tra noi, perché dovete sapere, anche tu Emilio, che le persone che mano a mano sono entrate per parte del riposo del guerriero, come nasce tutto, lo racconto agli ascoltatori, quando cercavamo gli ospiti, mano a mano che un ospite si mostrava particolarmente interessante e capace di divulgare, noi ovviamente ce lo segnalavamo, certo. E quindi poi rimaneva un punto fisso della trasmissione. Poi con tutte queste persone siamo diventati amici, ovviamente, perché poi ti senti al telefono, chiacchieri, cominci a conoscerti e quindi subentra un altro meccanismo. Ma, vedi, stavo parlando di passione poco fa, quando tanta gente condivide non la stessa passione, però quando, come dire, c'è della passione per cose diverse, ma c'è la passione, è comunque una cosa che in qualche modo lega, oddio, a volte divide anche a seconda dei campi in cui, esatto, vero. Io ho fatto le litigate sul cinema, che sono le mie migliori litigate. Ma come stai a litigare sul cinema? Comunque è un'opinione, no? No, sul cinema si capisco, su una squadra di calcio, no? Perché è un'altra cosa, c'è la tifoseria lì, vabbè. E invece perché nel cinema, in realtà non nel cinema nel senso, nel contenuto, anche in una grande serie televisiva, sì, tu in qualche modo ti rispecchi. Se noi dovessimo vedere lo stesso film, vedremmo due film diversi, perché avrebbe delle risonanze sulla tua vita ben diverse, sulla tua sensibilità, sulla tua storia ben diverse dalle mie, e potremmo litigare fortemente su quel film. Ma speriamo che non succeda, speriamo di ma di solito non è successo, ci troviamo d'accordo su molte cose, esatto. Invece poi è successo anche il contrario, che amici conosciuti nel percorso della propria vita diventano invece delle persone di riferimento, perché fanno un mestiere che in quel momento, insomma, è interessante conoscere. Antonio Mancinelli è il caso suo. Ciao Antonio, buona domenica. Ciao a tutti, super morale. Ma guarda, il morale anche prima, io posso dire una cosa, a me sembrava Francesca Dragotto che fosse un po' malinconica, non l'ho mai sentita così malinconica come oggi, non bisogna esserlo. Antonio si occupa di moda, scrive di moda, ma perché Antonio si è messo a scrivere di moda? Perché a te piace andare ai party, cioè hai cominciato con quello, no? Ride. Non è assolutamente così, innanzitutto mi occupo di attualità e quindi anche in un giornale che è di moda, quindi per carità, non rinnego nulla di quello che ho fatto, dopodiché la moda secondo me continua ad essere un osservatore estremamente interessante, sì, di quello che succede nella società, e devo dire che all'inizio della mia carriera, quando ho iniziato, ahimè, nel Mesozoico ormai, causai grande scandalo nel mio piccolo, perché che un uomo che modestamente sa scriveva benino si occupasse di questi temi, sì, per un quotidiano, all'epoca ho iniziato con il Corriere della Sera, sembrava uno scandalo, se non che una mia deliziosa collega, longilinea, bellissima, molto fragile, iniziò a occuparsi di sport, e quindi eravamo un po'... Vi compensavate a vicenda, insomma. Sì, però detto questo ho iniziato a occuparmi di moda veramente, perché a me interessava tutto l'aspetto sociologico della moda e mi interessava il fatto di poter raccontare la realtà attraverso il modo in cui vestiamo, attraverso in cui modo in cui appariamo, attraverso per esempio i film, voi parlavate prima dei film, e qui tutto quello che poi purtroppo o per fortuna nel corso degli anni, iniziamo negli anni 80, quindi ahimè sono passati 30 anni, ha in qualche modo influito, no, sul mondo, sempre più dandogli la forma di una moda. Se pensate nel corso di questi ultimi 20 anni a quante parole sono state di moda, a quanti concetti sono stati di moda, a come la moda cioè, non sia più applicabile solo ai vestiti, ma a tutto quello che un sociologo molto più famoso di me, che si chiama Ugo Volli, chiama forma moda della società. E questo devo dire che a me piaceva moltissimo. Il fatto che siccome ci siano stati grandi moni nel passato, no, a pensare al romanticismo, al decadentismo, tutto quello che ne conseguiva, ci sia tutt'oggi un inseguire la moda che non è solo relativa ai vestiti o alle sfilate che comunque abbiamo appena visto. Quindi mi interessa molto questo e mi interessa raccontare il mondo attraverso questo tipo di osservatorio. Io credo che arrivi proprio più dal basso ormai la moda, cioè dalle persone, dai ragazzi, che da tutti quelli che si inventano qualcosa senza seguire chi l'ha detta invece, anzi forse chi l'ha detta arriva dopo ormai. Ma guarda, stai cogliendo un punto estremamente fondamentale della discussione sui cosiddetti fashion studies che ci sono dette, cioè la farò molto breve. Quando io insegno e dico ai miei studenti, negli anni '80 a tutti viene in mente un certo film, una certa musica, una certa silhouette di donna, le spalle larghe, la vita stretta e così sì. via. Negli anni '90 grosso modo ci siamo, c'è il minimalismo, c'è la new age, c'è un certo tipo di musica, c'è il trip hop. Come definiamo questo primo decennio del 2000? Siamo ormai arrivati al 2013, quindi come dire, l'abbiamo anche doppiato, ormai superato. Sì. E devo dire che quando faccio questa domanda, ma la faccio prima di tutto a me stesso e anche a voi che siete uomini più colti di me, che cosa ha caratterizzato, come la racconta, di cosa avremo nostalgia del 2023? No? Cioè, sai, nel 2013 com'era bello, che cosa? Probabilmente hai ragione tu, quello che è stato veramente rivoluzionario in questo primo decennio del famoso terzo millennio sono stati i social network e la comunicazione. Questo ha portato e fatto sì che nascessero tante forme dal basso, nel senso di sì, sì, in quel senso, popolo, cioè, non da non chi non decide. Culturale, anche ci sono certo. blog scritti molto meglio di molti giornali, indubbiamente. E ci fosse veramente una condivisione del sapere, delle passioni, quella parola che anche a me piace molto, di tutto quello che piaceva a una persona, e quindi ormai ci sono anche molte case di moda che seguono, anche molto famose, che seguono con attenzione quello che fotografano, non so, i blogger, il famoso street style. Quindi sicuramente oggi non c'è più una moda, ma ce ne sono tante, e il paradosso è che sono le grandi industrie che stanno ormai inseguendo il marketing virale, che prendono spunto da lì. Ecco. Tutti i grandi brand hanno una pagina Facebook che prendono spunto da questa nuova modalità di comunicazione. Ecco, prima delle previsioni del tempo, Emilio, cosa che stavi dicendo proprio su questo? Sono perfettamente d'accordo, anzi forse il tratto distintivo di questi anni, però veramente stiamo facendo, come dire, stiamo astraendo proprio tantissimo, è la possibilità di fare le cose che piacciono, in mente, insomma, che arrivino dal basso. Penso anche nel campo di cui mi occupo, nei videogiochi, che ritengo davvero essere, come dire, in questo momento, non so se di moda, questo piacerebbe chiederlo. Assolutamente sì. Però dal punto di vista del fermento culturale, lì c'è un movimento veramente effervescente e vitale, e soprattutto la novità sarà che arriverà dal basso, cioè videogiochi privati, fatti in casa, io per te, ne parlavamo anche qualche tempo fa. E questo però distingue veramente tanti settori diversi, cioè la gente può fare, la persona comune, io posso fare una cosa perché mi piace un sacco farla conoscere e magari mi va anche bene, e sottolineo magari perché poi non è detto, però questa possibilità è nuova e estremamente interessante. Grazie intanto. Grazie a voi. Grazie Antonio Mancinelli. Ecco, dimmi. Se posso chiudere, sì, aggiungi. Un'altra caratteristica di questi anni è la mobilità, per cui io sono convinto che siamo tutti nomadi culturali, un giorno siamo qui, un giorno saremo là, magari solo con la testa, qui Gallarini non ti scollerai da me, non ti, come dire, ci ritroviamo da qualche parte, fisicamente, virtualmente. E riposo il guerriero. Il guerriero non si riposa mai. Mai, guarda, si è mai riposato e mai continuerà a farlo. Grazie Antonio, buona domenica. Grazie a voi. Le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. Emilio Cozzi, mi dica. Visto che tu ti occupi di tante cose e anche di videogiochi. Certo. Non voglio dire soprattutto perché non è esclusivo. No, per, cui, per una buona parte del tempo. Ma perché tu sei sempre stato un grande appassionato videogiocatore, o perché a un certo punto ti è arrivata questa passione? No, lo sono fin da piccolo, ahimè, di tempo, diciamo, prima ne è passato un po'. La versione, come dire, la versione ufficiale è che un giorno vidi Dragon Slayer, un gioco, un laser game. 1983 in Italia, sì. E me ne innamorai pazzamente. Era un videogioco per l'epoca rivoluzionario, disegnato. Cioè sì, c'è un film, il disegno era di Don Bluth, questo disegnatore uscente di Walt Disney, che poi fece tanti altri giochi, fece anche scuola per un brevissimo periodo, per poi Laser Game si è completamente, come dire, dato alla macchia. Questa è la versione ufficiale. La versione ufficiosa è che da quando vidi uno dei miei film preferiti, mi ne occupo anche appunto di cinema abitualmente, cioè Guerre Stellari, decisi che la mia vita sarebbe stata come quella di Han Solo, e i videogiochi permettono di essere Han Solo. Questo, come dire, piano piano è sempre più evidente, e al di là delle battute, la fortuna, la forza, anche l'efficacia dei videogiochi arriva in parte dal concedere alle persone di fare qualcosa che nella vita probabilmente non farebbero mai o non faranno mai, e questo, se permetti, ha una capacità suggestiva e emozionante e uncinante che raramente trovi anche in altre muse. In modo minore funziona così ovviamente anche quando leggi un libro e ti identifichi nel personaggio in un film, solo che non puoi agire. Ma in realtà tutti, se pensi alla pittura, sì, se pensi alla musica, a qualsiasi arte, quando fatta bene ti porta in un altro mondo, in un'altra dimensione. No? Piccolo dettaglio, nei videogiochi quella dimensione la vedi, ci interagisci, la vivi e, come dire, magari accumuli anche un punteggio se ti interessa farlo, insomma. Tu sei molto legato, perché per esempio a me non me ne frega, Dragon Slayer, sì, a me interessava solo arrivare alla fine, certo, e ho amato quel gioco, ho comprato anche la console da bar che ho avuto per molti anni, mi era giunta voce, adesso sì, col nuovo trasloco ho detto basta, che solo trasportarla non ci avevo voglia, ma il punteggio manco sapevo, cioè c'era, ma certo, non l'ho mai guardato, quindi non saprei, perché io non sono da punteggi, sono da azione. Ecco. Sì, sono abbastanza simile. Adesso, anzi, in rari casi, perché poi dovendone giocare molti, non ho tempo, in realtà lo dico anche di giocarli tutti, insomma, quindi mi interessa finirli. In alcuni casi, penso a Mass Effect, penso ad altri giochi, come dire, con un universo espanso, si direbbe da fan di Guerre Stellari, mi piace visitarlo tutto, e questo in alcuni casi, come dire, porta via quelle 200-300 ore, sì, ma, sì, però il punteggio non mi interessa. Anche quegli anni, diciamo così, ormai i mondi aperti, sì, è veramente difficile riuscire a... Ho amici serissimi, sì, matematici, ma sì, di altissimo profilo, che da 12 anni, da quando esiste, giocano World of Warcraft tutti i giorni. Ancora? Tutti i giorni, e nonostante questo la famiglia tiene, quindi insomma... C'è anche qualcuno che è Radio 24, tra i tecnici, che è un grande appassionato. Andrea Ligabue, ciao, buona domenica. Ciao Stefano! Buona domenica a tutti e ciao Emilio. Ecco, sì, perché vi conoscete, perché quest'estate, certo, insieme abbiamo fatto questo momento dedicato ai giochi e videogiochi, perché ho voluto mettere insieme queste due realtà, perché sono due mie grandi passioni. Sono un grande giocatore con i giochi da tavolo, e poi a un certo punto sono arrivati i videogiochi e non ho dimenticato né uno né l'altro, ovviamente. E Andrea, tu ti sei inventato il mestiere di ludologo. Sì. Chi te l'ha fatto? Chi te l'ha fatto fare, voglio dire? No, allora, chi me l'ha fatto fare? Come sempre succede nella vita, ci sono delle opportunità e uno decide. Le cose importanti succedono dietro una fitta programmazione. Anzi, diciamo, la mia carriera programmata era quella di studioso di chimica teorica, e invece mi sono ritrovato a fare il ludologo. Ecco. Perché a un certo punto nella vita ho avuto la fortuna di incontrare la Lego, organizzando il Festival del Gioco. Con la Lego ci siamo trovati bene, con Lego Italia, su un progetto in cui le mie capacità potevano essere utili, e a quel punto lì ho detto: ma perché non provare a trasformare quello che è una passione in una professione? Mi sono preso un anno di pausa dall'università e ho provato, diciamo, a intraprendere questo cammino. Ecco, così è successo. Una curiosità per Emilio Cozzi, sì, tu cosa avresti dovuto essere? Un pilota aeronautico. Ma veramente? Te lo giuro. Ma dai. Te lo giuro. Bello, però. È emozionante. No? Sì, ma oddio, quello non lo so. Ma devo di linea, tipo. Capito? No, adesso dico una cosa di cui poi mi sono pentito. Lo dico. E quando ero piccolo, però, come dire, quando volevo fare l'astronauta. Dall'astronauta poi piano piano, come ridimensioni, no? Il pilota di caccia. Ma che nel senso della vertigine, le vertigini. No, perché piano piano, anche, come dire, a un certo punto davvero diventa un pochino, capisci che è un po' improbabile. Però non ti arrendi. Cosa fai? Allora devi sul pilota pilota aeronautico da caccia militare. Grazie al cielo non sono riuscito a farlo, perché poi, come dire, adesso avrei qualche dubbio in più, mettiamola così. Sì. E sono passato a quello civile, poi semplicemente è intervenuta la vita, cioè sono daltonico. I piloti in Italia daltonici non possono essere, grazie al cielo. E quindi ho fatto tutt'altro. Ma il brevetto? No, no, non puoi averlo, perché per questo motivo proprio, no. Però adesso tu dici che sono così, è così interessante questa storia, secondo me è veramente triste. Mi incuriosisce. A parte che uno, anche se daltonico, sa che deve invertire le cose. No, lo so che non è così, sto scherzando. No, ma adesso in realtà poi parlo, voglio dire, da allora me ne sono completamente disinteressato. Però ai tempi, per esempio, una cosa era un'anomalia, cioè un pilota tedesco avrebbe potuto essere daltonico. Ecco. Era solo una regolamentazione italiana. Però essendo italiano, i miei sogni si sono infranti contro il daltonismo e contro meno i dischetti di dati. Meno male che ci sono i vari fly simulator, noiosissimi per la verità. Comunque adesso ne arriverà uno spaziale, ma ne parleremo. Certo. Andrea, qual è la cosa più difficile per uno che fa il tuo mestiere? Beh, innanzitutto è il mercato. Io, diciamo, sono specializzato in giochi da tavolo. Il mercato dei giochi da tavolo in Italia è purtroppo ancora molto molto debole. Anni luce lontano da quello dei videogames, ma anche da altri mercati dell'intrattenimento. Cioè l'Italia non è neanche nella top 5 delle nazioni a livello di dimensioni di mercato del gioco da tavolo. Già solo Spagna, Francia, Germania e Olanda sono, rispetto a noi, molto più grandi, ma ultimamente pare che anche nazioni, diciamo, storicamente probabilmente più deboli, come potrebbero essere la Polonia o anche i paesi dell'est, hanno un mercato di giochi da tavolo come vendite paragonabili, se non superiori al nostro. Ma perché noi siamo così, scusami se te lo chiedo, c'è un motivo? Allora, la scusa storica è che in Italia c'è il bel tempo e la gente preferisce stare fuori. Questa è la scusa storica, perché io mi ricordo quando lavoravo per ricerca avanti e indietro tra Copenaghen e Modena, il clima in inverno tra Copenaghen e Modena era veramente poco differente. Cioè non è che Modena sia questa città e, diciamo, tutto il nord Italia. Certo. Quindi, diciamo, questa è la scusa storica. Sì. No, io penso che ci siano anche sicuramente dei motivi culturali. Il fatto che comunque il gioco da noi non è mai stato sdoganato come un passatempo familiare intelligente, è stato sempre relegato sia dalla letteratura che dai media essenzialmente a una forma di intrattenimento infantile. Il mercato del giocattolo è, ad esempio, forte rispetto a quello del gioco. E diciamo non così in difficoltà come quello del gioco da tavolo rispetto alle altre nazioni, quindi questo sicuramente è un primo motivo, ma basti pensare che a livello di media importanti, se guardiamo televisioni, magazine, quotidiani, non esistono di fatto rubriche o momenti in cui si parli dei giochi, delle novità dei giochi, delle loro uscite. Questo ha sicuramente un influsso e un effetto chiaro, perché poi le persone pare che, insomma, non credono che non esistano, insomma, a parte i soliti titoli talmente famosi che non stiamo qua a ricitare, ma che tutti conoscono, insomma, quindi... Esatto, la mia impressione è che la gente giochi poco a questo tipo di gioco e per questo non si crea cultura e non è aggiornato anche lo stesso genitore che deve fare un regalo anche a un bimbo, quindi anche ritornando a parlare di giochi come intrattenimento per bambini, l'unica esperienza che ha è quella dei giochi della sua infanzia. Ad esempio in Italia hanno molto successo eventi che parlano dei giochi della tradizione, cioè come se ripescare la lippa o la campana che si giocava sulla strada, quelli sì che erano dei bei giochi. Invece, chiaro, sei stato molto chiaro e succede. Andrea, io ti saluto e ti ringrazio per essere stato nel Riposo del Guerriero per tutto questo tempo, ci risentiremo come sai e vi ricordo anche il sito di Andrea che è ludologo.com. Buona domenica, ciao Andrea. Ciao Stefano, ciao. E buona domenica a tutti e grazie. Ecco, io credo, Emilio, che forse sarà questa associazione gioco e giocattolo, sì. Un po' come se fosse la stessa cosa, e quindi non... Invece il videogioco, però, ad esempio, sui giornali adesso comincia a essere divulgato. Comincia a essere divulgato, per quanto soffra tantissimo ancora di questo pregiudizio culturale, per cui è una cosa infantile, è una cosa, anzi, addirittura che spesso fa male. Come dire, il caso GTA è della scorsa settimana e vedrai che, ahimè, non è finito. Però sì, è vero, devo essere sincero, da qualche tempo anche giornali insospettati inevitabili cominciano ad avvicinarsi al videogioco con un approccio che è finalmente diverso rispetto a quello utilizzato fino a qua. Tieni presente però che all'estero, ahimè, mi dispiace fare piuttosto provinciale questo esempio, però è vero in questo caso, la letteratura anche accademica sul videogioco è ricchissima. Come e sui giochi da tavolo. Come sui giochi da tavolo, sì sì, ma è proprio, si studia in accademia. Insomma, noi ci distinguiamo sempre, vedi? In alcune cose sì. Sì, ma no, in tante cose ci distinguiamo. Anche in bene, su via, dai. Però no, hai ragione. Sì, sì, no, certo, anche in bene. Ecco, nei videogiochi non ci distinguiamo, diciamo che ci distinguiamo in generale. Diciamo così. Gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Hai fame, Emilio? Sì, devo essere sincero. Hai fatto colazione? No. No, perché sei venuto di corsa. Di corsa, ecco, sì, vabbè, sì, sei sì. svegliato, dici... Ah, vabbè. No, te lo chiedevo perché adesso sì. arrivano le suggestioni per questo. Le suggestioni del gastronauta. Ciao Davide Paolini, buona domenica. Buona domenica a te. Anche tu nell'ultima puntata del riposo del guerriero, quali suggestioni hai per noi oggi? Ma ho suggestioni che vanno alla prossima settimana a Milano Golosa del 12, 13, 14 ottobre, perché ci sono veramente delle chicche incredibili. Si potrà assaggiare un tonno di, tenuto in scatola ovviamente, di 25 anni. Si potrà imparare a fare la spesa per una settimana. Si potrà assaggiare un parmigiano da 12 mesi fino a 110 mesi, quindi ci saranno tutta una serie di, se vogliamo, degustazioni, ma anche di insegnamenti per fare la spesa, perché credo che le migliori suggestioni oggi siano quelle che indicano e non portano allo spreco. Oggi dai dati che si vedono in giro, che vengono continuamente messe sulle pagine dei giornali, sprechiamo tanto di quel cibo, che sicuramente potremmo sfarmare forse non dico tutta l'Africa, ma quasi, col cibo che buttiamo. Quindi credo che oggi le migliori suggestioni siano queste, di fare molta attenzione a che cosa si compra e come si spendono i soldi, e sicuramente come invece di sprecare si può risparmiare facendo diciamo delle scelte oculate e ogni volta comprando quello che è necessario e non il superfluo. In questo momento che c'è questo boom incredibile del cibo, sui giornali, sulla televisione, ovunque, io credo che sia venuto il momento di fare una svolta, di non dare più diciamo quello che è di più, nel senso di incitare, andare a spendere, andare a comprare e andare a degustare, ma semplicemente di formare e di educare a sì mangiare, sì gustare, ma diciamo mantenere quello che è necessario e non il superfluo. Non so se tu sei d'accordo. Ah, io sì, assolutamente sì, Davide, ormai io sono sempre stato così, guai buttare è una cosa che non sopporto, il superfluo è inutile, per cui si chiama già superfluo, quindi già la parola stessa lo dice, no? Comunque un'altra, se vuoi una suggestione te la do, perché in questi giorni, cioè da oggi e domani, c'è diciamo un grande festival della cucina a Lodi, quindi dove ci sono i ristoranti che fanno sentire delle specialità, e poi c'è tutta una parte anche sulle eccellenze alimentari, sui prodotti che, come tu sai, io preferisco il prodotto al cucinato, quindi ci sarà l'uno e l'altro, e questa diciamo è l'indicazione che do, perché è partita in queste ore e durerà credo fino a domenica sera, quindi credo domenica sera, no scusatemi, fino a lunedì, quindi credo che sia veramente così un posto per i milanesi di andare in questo weekend, sperando che non piova. Bene, grazie, speriamo che sia così. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Ciao, ciao. E grazie, un bocca al lupo a te, caro Stefano. Grazie Davide, davvero, grazie. Allora, adesso, solo che Milano Golosa è il 14, 13, 14, esatto, sì, quindi sì. Adesso è tardi, cioè non è che possiamo uscire di qui e andare lì. Ma in effetti, guarda, la rubrica di Davide è pericolosa a quest'ora, perché io spesso l'ascolto in macchina, rischi di addentare chi ti accompagna a metà, quindi... No, pure fai viaggi per andare a cercare, esatto, il posto che ti ha consigliato. Sì, sì, sì. Marco Lombardi, ciao, buona domenica. Buona domenica a te Stefano e a tutti quanti. Marco, a un certo punto, critico cinematografico, ha deciso di inventarsi il mestiere di cinegustologo, semplicemente perché anche lui è uno di quelli con la fame sempre presente. No, non lo so Marco, dico io così. uno dei tuoi ospiti prima stava dicendo che aveva trovato un pretesto per andare a, a forse chi si occupava di moda, no? Tu gli hai chiesto, non mi ricordo. Sì, no, ai parti, certo. Ma perché conosco Mancinelli e so che li detesta, per quello gliel'ho detto, era una provocazione. Ma io, insomma, sai, bisogna ogni tanto cercare di dare una cornice di serietà a qualche cosa che magari non è molto seria, quindi visto che la tavola per me è una cosa... appassionante, e insomma un giorno mi sono detto qua bisogna cercare di renderla anche un, una specie di mestiere, però un mestiere di quelli vivi e giocosi. Allora, e hai... visto che scrivevo già di cinema, poi insomma c'è stato un hai messo insieme le cose, tra... ovvio. Allora, ma è, come sempre tu essendo l'ultimo hai proprio i tempi strettissimi e hai 2 minuti per raccontarci di Sacro Graac, che è il film di che hai saltato l'altra volta, eccolo qua. Ebbene sì, il Leone d'Oro di Venezia di quest'anno, guarda, io mi trovo in questi giorni a una manifestazione che è nata a Milano, che è Taste, e si trova a Roma in questi giorni, ed è veramente il cacio sui maccheroni rispetto a Sacro Graac. Sacro Graac racconta tutta la romanità, è un po' il controcampo della grande bellezza del Sorrentino, tutta la romanità espulsa dal centro di Roma, quindi tutta quella che circuita intorno al concetto macro di periferia, quindi al raccordo anulare, e quindi il film racconta le periferie, racconta tutta una serie di personaggi che però sono i personaggi che poi troviamo anche in altri luoghi di Roma, troviamo a Trastevere, a Montemario, a Monteverde, eccetera eccetera. Quindi il film è un film interessante, però è un film dove secondo me c'è questa sovrastruttura che non è molto in sintonia con le storie, perché quel tipo di personaggio e quel tipo di mondo, che è un mondo un po' fuori dagli schemi, lo si ritrova ovunque, non necessariamente intorno al raccordo anulare. Il che quindi mi fa pensare, a Taste ci sono grandissimi chef e si possono assaggiare i loro piatti a prezzi veramente bassissimi. Tutti sono chef che lavorano sul concetto di complessità, di strutture, eccetera, eccetera. Alcuni ce l'hanno nel sangue, vengono fuori dei piatti che pur essendo estremamente complessi, di fatto sembrano semplici, quasi fossero la materia prima disponibile. In altri invece si sente proprio una sovrastruttura, non faccio naturalmente i nomi, si sente che ci sono una miriade di ingredienti che non riescono molto a trovare armonia. Sacro Graac secondo me è uno di questi piatti, purtroppo. E poi però insomma Leone d'Oro a Venezia, quindi viva il cinema italiano che vince nei festival, soprattutto di casa nostra, dove abbiamo ogni tanto l'abitudine di, insomma, di non amarci troppo, di parlare troppo non tanto bene di noi stessi, però è un film secondo me insomma da vedere anche da questo punto di vista. Sicuramente. Sì. Senti, grazie Marco Lombardi per la tua idea, cinegustologia.it è il sito, e per essere stato nel riposo del Guerriero per un po' di puntate, ti ringrazio molto, ciao. Grazie a te e a tutti quanti, a presto. Allora, intanto grazie Emilio Cozzi di essere venuto qui, insomma, dice, ho detto, grazie, vieni grazie qua fisicamente, così ci facciamo anche compagnia. Devo essere sincero, è stato un onore, è un piacere. Per me, infinito. Averti qua insieme a tutti i miei ospiti, grazie a Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè è in regia, ovviamente a voi ascoltatori. E, manca Arturo Bracchetti, avrebbe dovuto esserci, ma è a Parigi in questo momento e quindi non siamo riusciti a metterci in contatto, sta lavorando su un nuovo lavoro, lo vedremo in Italia comunque. Comunque tra non molto, e ovviamente io devo chiudere come avevo promesso con la passerella, e quindi la passerella degli ospiti che hanno caratterizzato queste 350 e più puntate del Riposo del Guerriero. Ci sentiremo chissà dove, chissà quanti, quando. Buona domenica da Stefano Gallarini. Hanno dato lustro al Riposo del Guerriero Andrea Ligabue, l'uomo sempre in gioco, Antonio Capitani, l'uomo delle stelle, Antonio Mancinelli, il seduttore sedotto dalla moda, Arturo Bracchetti, l'uomo dai mille volti, Emilio Cozzi, l'uomo coi muscoli della cultura, Enrico Groppali, l'artista del bianco e nero, Fables, il guerriero della rete, Francesca Dragotto, la giocoliera delle parole, Giovanni Nuti, il musicista della poesia, Marco Lombardi, l'artefice della cinegustologia, Michele Tosi, il persuasore non occulto, Pia Capelli, la domatrice dell'arte, Tommaso Labranca, l'equilibrista sul mondo. hanno permesso la realizzazione del programma tutti i tecnici, gli assistenti, i colleghi di Radio 24, il centralino e soprattutto voi, ascoltatori. Ha condotto e ideato oltre 350 puntate di Il Riposo del Guerriero, Stefano Gallarini.